Non ci sono più le mezze stagioni, di Roberta Giordano. Incredibile, anche se non ci sono più le mezze stagioni, torna invece la stagione di Non ci sono più le mezze stagioni. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, finalmente siamo di nuovo insieme. Qui l'appuntamento fisso del sabato, tutti i sabati dalle 14 alle 15. Per cosa? Per sentire che effetto vi ha fatto la settimana che è appena passata, quella che insomma si sta chiudendo, le notizie, le tante notizie che si sono rincorse, no? Siamo proprio, come si può dire, travolti dalla pioggia di fatti che ogni settimana accadono, quei pochi poi che portiamo a conoscenza, a vostra conoscenza, perché se doveste stare davanti anche solo alle agenzie, flash di agenzia ogni giorno che ci sono sui computer, per esempio dei giornalisti, insomma non si sa più che pesci prendere, come fare una cernita, e si parla solo delle notizie più importanti. Comunque, quello che vi chiedo, vi torno a chiedere quindi in questa nuova stagione, è: quali sono i fatti della settimana, la notizia della settimana che vi ha colpito di più e sulla quale volete tornare, volete fare il vostro commento, sempre con estrema libertà. Vi ricordo dall'inizio il numero verde da fare, siamo insieme fino alle 15, quindi riflettete sulla vostra notizia della settimana, numero verde che è sempre 800 24 00 24. Lo ripeto, 800 24 00 24. Ci sarà come al solito il mio opinionista estemporaneo, ogni volta diverso. Ogni volta chiedo a un ospite, donna, uomo che sia, insomma, di fare i suoi commenti, dare il suo punto di vista, la sua angolazione particolare sui fatti della settimana. E poi ci saranno qua e là le varie incursioni che non possono mancare, quindi non ci sono più le mezze stagioni. Allora, prima di tutto vi voglio presentare con una certa enfasi l'ospite di oggi. Signore e signori, Giorgio Faletti. Mamma mia, rullo dei tamburi. È insomma quale onore. Un uomo di successo come te, Giorgio, che io, per il quale provo sempre grande ammirazione, un po' per tutti quelli che sono arrivati a certi livelli, perché Giorgio è un talmente poliedrico nella sua capacità di esprimere talenti che è davvero sorprendente. Ormai lo conosciamo da tanti anni in tante vesti sue, ma ultimamente come giallista di grande successo, appena pubblicato insomma negli ultimi tempi Io sono Dio, sempre con Baldini, Castoldi, Dalai. Avevi iniziato con Io uccido qualche anno fa, addirittura tradotto in tutte le lingue in paesi del mondo. Una cosa, quando si mette a fare qualcosa a Giorgio, insomma, lo fa come si deve. Così, Giorgio? Ma io ci provo ogni volta, poi a volte va bene, a volte va male, combinazioni. In questo caso si è avuto un riscontro da parte dei lettori che hanno mi danno il piacere di seguirmi, di essere attenti a quello che pubblico. È una cosa che è arrivata inaspettata anche a me, perché pensavo di avere la possibilità, cosa che ho fatto in passato, di avere la capacità di raccontare storie nel breve respiro, cioè uno sketch comico nell'arco di una canzone. Non mi ero mai misurato con una storia di respiro più lungo. Di 700 allora, pagine circa a volte, ecco, no? Più esatto. O meno. E questa cosa è arrivata, ripeto, sono stato io il primo a essere sorpreso, al punto che adesso ho 4 romanzi, un'antologia dei racconti. Ancora mi guardo in giro temendo che arrivi qualcuno a dirmi che sono su scherzi a parte, che devo restituire tutto. Senti, che invece pare al momento perlomeno che non sia così, a meno che non ci siano poi rivelazioni segrete, ma su questo Io sono Dio il responsabile, come sempre il colpevole, il maggiordomo? No, non è il maggiordomo, anzi è un personaggio. Quando si scrive un giallo si sa che ci cerca di fare una trama che sia la più arguta, la più nascosta possibile. E questo romanzo, che mi è costato 2 anni di lavoro, molti viaggi, molta documentazione, lo sento molto mio. Cioè, no, non è un caso che cominci con il pronome io. Come il primo. Esatto, come il primo. Ed è un romanzo, ripeto, che sta andando molto bene. Adesso non ho dei conteggi precisi, ma credo che abbiamo superato, è uscito maggio. Eri il terzo in classifica ieri dei libri più venduti in Italia, della narrativa italiana, se non sbaglio. Io credo che abbiamo superato le 600.000 copie, mi tengo basso. Ti puoi ritenere soddisfatto anche tenendo tenendoti basso. Teniamo presente che il libro è uscito a maggio ed è in classifica da maggio, per cui quindi sono contento. Tiene bene, diciamo. Ma poi la cosa più importante è che, a parte il nome di un autore, che si crea nel corso del tempo uno zoccolo duro di lettore. La cosa più importante è ancora e sempre il passaparola, cioè il fatto che qualcuno legge un libro e poi dice a un altro: prendi quel libro che è bello. E il fatto che nel mio caso il passaparola abbia funzionato mi rende contento, prima di tutto perché ho l'impressione di aver scritto un buon libro. Quindi c'è un gran chiacchierare evidentemente dei tuoi libri, se il passaparola riesce a farti vendere tutte queste copie. Prima di sentire, cominciare a sentire tra poco Carlo da Pisa, mi fa piacere, già le vostre telefonate arrivano al numero verde 800 24 00 24, sentiremo qual è la sua notizia della settimana. E prima ancora di collegarci con un pianeta estemporaneo, volevo chiederti, Giorgio, anzi volevo comunicare alle ascoltatrici e agli ascoltatori che un po' sei sofferente oggi, no? Sì, sono un po' sofferente, sì, perché ci sono le prove del Gran Premio di Formula 1. Difatti, l'ho strappato. Istanti sarò davanti al televisore senza l'audio, ecco. E vi terrò informati in diretta su quello che sta capitando, anche perché io sono appassionato da sempre di Formula 1. Poi in questo momento c'è un pilota italiano, Giancarlo Fisichella, che è arrivato al volante di una Ferrari. Come voi sapete, un pilota italiano è sempre un punto di interesse, anche se c'è una piccola curiosità. Ha avuto un incidente già stamattina, sì, no? Sì, no, a parte quello, che la cosa che ci sta, macchina nuova, sede nuova, tutto. No, Giancarlo Fisichella ha corso per due anni, negli ultimi due anni, con una macchina, la Force India, che se andava in pista con una Pepiaggio forse aveva più chance. E proprio combinazione, adesso che è passato alla Ferrari, la Force India si è messa ad andare con una forsennata. Per cui si vede a volte la sorte. Non è maligna, la sorte è beffarda. Io dico sempre che c'è qualcuno da qualche parte che le scrive le sceneggiature, che ha un poderoso senso dell'umorismo. E che non è in questo caso Giorgio Faletti. Allora Giorgio, c'è anche Renato da Milano e altri ascoltatori, adesso cominciamo a mettere carne al fuoco con le vostre notizie della settimana, ma direi anche di fare appunto il nostro consueto, lo riprendiamo, questo collegamento con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Riprendiamo dunque, come vi dicevo, ad affacciarci su questo pazzo mondo. Torni dalle vacanze su Marte o da qualsiasi altra parte e scopri, per esempio, che i programmi televisivi si sono evoluti. In una trasmissione mattutina di intrattenimento popolare, la conduttrice della nuova stagione, sentite, fa accomodare, una cosa che vedevo nei giorni scorsi, una bionda soubrette, nulla di strano, sulla poltrona dell'interrogatorio gossiparo, le fa qualche domanda qui e là sui vestiti, sul fidanzato e poi, dato che la soubrette in questione è pure in dolce attesa, si passa direttamente lì per lì, cioè nello stesso studio dove si alternano senza sosta tronisti, grandi fratelli, dicevo, si passa direttamente dalla conversazione impegnativa all'ecografia in presa diretta, proprio con un macchinario lì, così che l'ignara nascitura, ingigantita sullo schermo, viene già precocemente avviata, ancora suo malgrado nel grembo materno, alla carriera dell'aspirante presenzialista televisiva. È venuto proprio in questi giorni. In un altro programma TV, Controcampo, lo conoscerete, un programma di calcio, da quanto si apprende è stata invece estirpata, in questo caso dallo schermo, dopo due sole puntate, la formosa ventenne valletta cilena Maria José López. Si sa del resto che anche un programma calcistico che si rispetti deve avere la sua procace valletta sculettante. Parrebbe però, vi dicevo, che la suddetta abbia sculettato in mezzo a vari uomini che come al solito discutevano dei massimi sistemi in un modo differente da quanto le avessero prescritto. E così avanti un altro che mostri e sculetti però a modino. E che diamine, non sono neanche capace di sculettare come si deve. Infine scopriamo che Alessia Marcuzzi, sentite un po', senza avvisare, ha cambiato gusti, subendo così qualche critica il passaggio dalla prima alla seconda serata. Sarebbe passata, udite udite, dall'entusiasmarsi per il bifidus acti regularis alla lasciva degustazione del Wurstel. Giorgio, hai qualche preferenza tra il bifidus acti regularis e i Wurstel? Ma devo dire che faccio fatica a individuare quello che mi piace di meno. Ah, ecco. Non vorrei nulla, senza nulla togliere al bifidus acti regolari, sì, forse no. Però tu sei regolaris, immagino. No, io sono regolare su un orologio, ecco, per quindi cui, cioè, il Würstel, essendo nato e vissuto nel paese dove c'è la miglior cucina del mondo, devo dire che il Würstel, con buona pace dei tedeschi, non è al top delle mie aspirazioni gastronomiche. Ogni tanto, come vizio, come sfizio, così. Allora, Giorgio, cominciamo a sentire il numero verde 800 24 00 24, le voci degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Carlo da Pisa. Signora Roberta Giordano, il suo nome e cognome ha un'assonanza familiare. Ah sì? Grazie. Io mi chiamo Giordani e mia figlia si chiama Alberta, quindi Alberta Giordani. Roberta Giordani, non è male. Sono nomi che mi piacciono moltissimo. Bene, bene, ringrazio. Quindi siamo un po' familiari, cioè c'è un'assonanza così un po'. Carlo, e quindi da Pisa che ci racconti? Qual è la tua notizia? Senta, io le dico la verità, avevo intenzione di dimenticare completamente il problema delle vallette e delle di Berlusconi, però io questa settimana ho visto la conferenza stampa su Sky e quando il giornalista del paese gli ha fatto la domanda, vedere lui, vedere la faccia di Zapatero lì accanto, dico la verità, mi sono sentito proprio sprofondare. Quindi stai parlando dell'incontro bilaterale tra Italia e Spagna e della conferenza stampa che ha tenuto Berlusconi. Sì, insomma, va bene, il giornalista gli ha fatto la domanda e lui doveva rispondere, però insomma, in un incontro istituzionale con una persona accanto che non ha, penso, nessun interesse alle cose che avrebbe risposto, io avrei in qualche modo glissato, non lo so. Lui ha parlato per un quarto d'ora, capito? Soprattutto pensando che le persone che lo ascoltavano, e questo che è impressionante, siano così stupide da credere a quello che lui diceva. Cioè il fatto che, secondo lui, queste donne che venivano portate a casa sua, diciamo, in una sede semi-istituzionale, ma insomma, vabbè, anche questo ci serve a dire molto, ma è sul volo. Cioè, queste persone, io ho saputo che dovevano essere in vestito scuro, nero, vestite da sera, truccate. Ovvero sia, lui poteva, magari non imporre, ma insomma, consigliare il suo sodale Tarantino che doveva portare queste donne già diciamo impacchettate, e poi secondo la sua versione lui ogni volta almeno una la conquistava e non si chiede, secondo quello che dice non sapeva che erano delle prostitute, delle professioniste, e non si chiedeva come mai ogni volta lui le conquistava. E non si chiedeva se erano, ma dico, ne sarebbe avuto il dubbio, ma non saranno mica professioniste, perché mi sembra che queste persone accettino la mia corte, diciamo così, in maniera un po' troppo facile per me. E forse quando uno insomma sente di essere conquistatore, Carlo, comunque insomma riportiamo quindi anche in primo piano questa faccenda, che comunque lo è moltissimo anche questa settimana e da mesi, ma in particolare poi continuano le rivelazioni di Tarantini, appunto l'imprenditore pugliese che citavi, che è al centro di questa inchiesta su escort, affari, tangenti, droga alla procura di Bari. Grazie Carlo, salutami anche tua figlia Alberta, e sentiamo invece Renato da Milano, sempre al numero verde 800 24 00 24. Qual è la tua notizia, Renato? Salve Roberta. Ciao. La notizia che mi ha veramente sconvolto è la morte per uno sciopero della fame di quel detenuto tunisino che dopo un mese di sciopero della fame è morto. Trovo, e soprattutto trovo allucinante il silenzio della stampa italiana, e quindi penso forse la civiltà veramente degli inglesi, che comunque non hanno lasciato morire Gandhi, al di là che questa persona sia colpevole o non sia colpevole. Però veramente ammiro tra l'altro la determinazione di questo tunisino, cioè nel senso che si è lasciato morire di fame, ha fatto lo sciopero della fame. Per 45 giorni mi sembra, più o meno. E E il silenzio totale della stampa italiana, io mi domando veramente il giornalismo italiano dov'è, cioè voglio dire, ci hanno riempito le orecchie e gli occhi ieri di Noemi a Venezia, cioè non lo so, io siccome lei è molto gentile io dico che mi imbarazza vivere in questo paese, userei altri termini veramente. Grazie Renato, e lo ricordiamo che questa naturalmente è una notizia tra le tante da riproporre, e giustamente diceva Renato, sì, io ho visto che se ne è parlato anche sui giornali, però forse dice Renato non con lo spazio dovuto, e tra l'altro ricordo che ha fatto un po' di scandalo la dichiarazione del direttore del carcere che ha detto beh era libero di farlo e quindi... Rieccoci allora qui, vi dicevo, intanto sempre Roberta Giordano con voi e in compagnia di Giorgio Faletti fino alle 15 col suo ultimo libro Io sono Dio, un grande scrittore di successo dopo appunto aver espresso i suoi talenti in tante forme. Però volevo, vi dicevo come mia consuetudine, cercare di fare così un sunto quasi impossibile di alcune delle notizie della settimana. Allora, naturalmente è come non ricordare la scomparsa di Mike Bongiorno, il papà della TV italiana, e i funerali di Stato che ci sono stati, sono partiti oggi alle 10 di mattina. Poi il duello politico tra Fini e Berlusconi, come andrà a finire? È una cosa che appassiona abbastanza, da un punto di vista politico è veramente di enorme portata, insomma, capire quali sono le mire, perché di questi disaccordi, due modi diversi all'interno di una stessa coalizione, partito, diciamo PDL, di vedere cose importanti come per esempio questioni etiche. Poi diceva, ricordava prima l'ascoltatore Carlo da Pisa, Zapatero, cioè il primo ministro spagnolo, il commento che ha fatto dopo la conferenza stampa di Berlusconi, ha detto preferisco il silenzio, non commento, per una questione di cortesia istituzionale. Poi il nuovo scontro tra il Presidente del Consiglio e i magistrati, abbiamo parlato dell'imprenditore pugliese Tarantini al centro dell'inchiesta di Bari che adesso dice temo per la mia vita, perché sono stati pubblicati i verbali del suo interrogatorio sul Corriere della Sera in questi giorni. La commemorazione ieri dell'ottavo anniversario, sono già passati 8 anni dall'11 settembre, le alluvioni in Turchia e anche un sisma che c'è stato poco dopo. Poi in Sudan è stata liberata quella giornalista, giovane giornalista sudanese, che era stata incarcerata perché aveva messo i pantaloni. Pensate, in Sudan si sta diffondendo la sharia, la legge islamica, le donne non possono mettere i pantaloni, lei era finita in carcere insieme a delle colleghe, le altre si sono pentite, hanno detto che non lo faranno mai più, lei invece voleva, è uscita per cauzione, voleva restare in carcere per continuare questa sua battaglia di libertà e civiltà. Quindi vedete le donne coraggiose nel mondo, e spessissimo, il più delle volte, non si parla di loro. Per quanto riguarda l'economia, il crollo dei bot in Italia, Confindustria dice che la ripresa sarà lenta e insidiosa, l'Ocse però dice una ripresa bene guidata in Europa più o meno da Francia e Italia. L'influenza A, adesso ci saranno tante vaccinazioni, circa 24 milioni di italiani saranno vaccinati dal 15 ottobre, e però il vice ministro Fazio della Salute dice in realtà per il momento sembra più leggera di quanto si pensasse. E poi a questo proposito quel caso particolare a Napoli di 200 autisti di autobus che si sono fermati perché hanno detto gli autobus sono sporchi, si rischia l'epidemia. Poi c'è stato il G8 contro la violenza sulle donne, guidato dall'Italia, e dove lo stesso presidente italiano Napolitano ha detto nonostante ci siano paesi democratici, civili, industrializzati, con costituzioni attente ai diritti come l'Italia, anche in Italia continuano a esserci fatti raccapriccianti contro le donne, ma anche ha citato l'omofobia e guarda caso anche questa settimana l'ennesimo caso di un ragazzo gay massacrato, in questo caso a Firenze, un ragazzo di 26 anni. Poi questa notizia che viene dall'Atletica, avete in mente questa campionessa della corsa, Caster Semenya, che sembra sia un ermafrodito, no? C'erano tutti questi dubbi perché ha uno stacco incredibile sulle altre nelle gare, l'ultima, l'800 metri, la medaglia d'oro di 800 metri a Berlino, e adesso verrebbe fuori che è un ermafrodito, però la Federazione Internazionale di Atletica si riserva di prendere una decisione verso fine novembre. La Formula 1 che sta seguendo il nostro Giorgio Faletti. Giorgio, eccomi. Senti, tra tutte queste cose e altre che magari ti vengono in mente, vuoi fare un commento su una notizia in particolare di questi giorni? No, ma mi ha colpito il commento del signore Mister Giordani, quello che voglio dire non è, non voglio giudicare nulla e nessuno. Il mio giudizio è più che altro generale, cioè sono un po' avvilito da come, diciamo, lo scontro politico, che poi più che scontro io dovrebbe essere un confronto, il confronto politico sia scivolato da cose di carattere, programmi di carattere economico, di welfare, cioè di rapporti con la gente e cercare il benessere del cittadino dal confronto, a cose che sono più da gossip che da politica. E questa cosa è una cosa avvilente, perché io oltretutto giro per il mondo, per lavoro, per documentazione e informazione, e vedo le copertine dei giornali stranieri. Sono, ripeto, un po' avvilito per come l'Italia ne viene fuori. Ma di una cosa, Giorgio, allora, visto che vai su questo argomento, no? Citavo prima appunto il duello Berlusconi-Fini, sentivo qualche giorno fa intervistato un deputato del PDL, della Vedova, ex radicale, al quale il giornalista chiedeva: ma secondo lei Fini non rischia l'isolamento? E lui diceva: ma tutto sommato, sui temi soprattutto della laicità, temi etici, all'interno del PDL, se si dovesse fare un sondaggio, forse potrebbe raggiungere anche il 50%. Berlusconi invece dice oggi, sulle prime pagine, che in un sondaggio che avrebbe fatto fare, Fini non andrebbe oltre il 4%. Tu, tra uno e l'altro, cioè, che cosa pensi di questo scontro? Ma sai, io penso che andando a vedere più in là, cioè gettando uno sguardo dall'altra parte della riva, in questo momento si sia scatenata la lotta alla successione. Teniamo presente che Berlusconi ha 73 anni, io come essere umano gli auguro di vivere 100 anni, ma prima o poi si presenterà il problema di chi dovrà guidare questo, chi può sostituire o potrà guidare questo schieramento, e di conseguenza io credo che Fini si stia ricavando un'immagine e un posto possibile dove piazzarsi una volta che Berlusconi si tolga di scena. Dico si tolga di scena nel senso, anche perché può anche decidere di andare in pensione, di essere stufo, di andare in pensione. Dubito che lo farà, però può anche decidere di ritirarsi e di starsene tranquillo a godersi gli agi della sua condizione. E di conseguenza penso che il motivo dello scontro, sia sostanzialmente questo, anche perché la figura di Fini, che in un primo tempo pareva essere quella investita dal crisma del delfinato, adesso recentemente si era un po' appannato, era un po' uscito dalla scena politica, anche perché la Lega ha una grossissima influenza. Allora io penso che se ci sono dei problemi intestini all'interno del PDL siano da ricercare in questa direzione, a parte il singolo provvedimento, il singolo oggetto di conversazione e di discussione, sia proprio un quadro generale che a mio parere va in questa direzione. E questo Giorgio Faletti è interessante, mi piace molto ogni volta avere appunto quello che io chiamo un opinionista estemporaneo, diverso, perché è interessante anche sentire di temi di cui si parla tutti i giorni, che affrontiamo tutti, anche uno scrittore, quindi non solo un opinionista tout court, o un giornalista o chi si occupa tutti i giorni di queste cose, ma tenendo presente una cosa, che io sono uno scrittore e nello specifico sono un giallista, per cui avendo a disposizione tutta una serie di eventualità, tendenzialmente agevolo e privilegio quella più romanzata. Ecco. E a me piacerebbe, nel mio immaginario collettivo, cioè, mi vedo Fini vestito da Zorro che va in giro a riempire di F i muri dei partiti avversari. Potrebbe essere una trama di un tuo prossimo libro, e poi vediamo la politica è sempre molto stimolante, certo, perché è una situazione che all'apparenza mostra una faccia al massimo un pochino sbarazzina, diciamo così, però sicuramente dietro le quinte nel retropalco succedono cose molto più significative. Chissà che cosa non succede, infatti. Giorgio, ritorniamo a sentire gli ascoltatori, sempre al numero verde 800 24 00 24, c'è Mario da Firenze. Sì, buongiorno. Buongiorno Mario. Complimenti per il programma. Grazie Mario. Senta, io avrei una domanda da rivolgere proprio a GR24, diciamo, a voi giornalisti. Sì. Il giorno che è morto Mike Bongiorno, il giorno dopo, la mattina dopo, io ascolto continuamente Radio 24, dalla mattina alla sera. Sì. La mattina dopo verso le 9. Senza effetti collaterali? Come? Senza effetti collaterali. Seguo un po' la borsa, quelle cose lì, ma sì. Insomma. La mattina dopo della morte, mi sembra l'8 mattina, è possibile. GR24 sì, ha dato la notizia. Sì. GR24 ha dato la notizia della morte di Mike Bongiorno quella notte, la precedente, nella sua casa di Monte Carlo. Sì. Allora era giusto, poi da quella volta in poi hanno parlato dell'albergo? Dice nell'albergo di Monte Carlo. Allora c'era la casa o era in albergo? Ah, Mario, guarda, ti devo dire che anch'io ho notato un po' questa discrepanza, però in realtà, visto che mi sono occupata, posso dirlo in prima persona, degli speciali poi che sono stati fatti di condurli quel giorno, anch'io ho dato poca importanza a questo aspetto e più ovviamente alla notizia così imprevista, come lo è ovviamente quasi qualsiasi morte se una persona non è malata da tanto tempo, no? Il fatto che fosse stato un lunghissimo pezzo della nostra storia, oltre della televisione, quindi non solo. Non so risponderti, Mario, ma indagheremo comunque. Grazie Mario. Giorgio, prima di fare la prossima pausa, hai voglia di dire qualcosa su Mike Bongiorno? Visto che tu sei nato un po' pochissimo prima che lui iniziasse a fare televisione, che iniziasse la televisione in Italia, se si può dire. Ma guarda, io ho dei ricordi da spettatore con Mai Buongiorno, quando nel mio rione ad Asti la televisione nelle case non c'era, per cui si andava tutti quanti in un bar a seguire la Sciarra Doppia e poi a crescere, finché stranamente, con mia grande sorpresa, mi sono trovato in qualche modo ad essere un collega di Mai Buongiorno. Il mio rammarico è quello di non averlo conosciuto di persona a fondo, no? L'ho conosciuto di persona, ma non abbiamo mai avuto un rapporto, non dico come quello di Fiorello, però non c'è stato mai occasione di frequentarci, di vederci lungo. È stato sicuramente un grande personaggio, un personaggio che all'apparenza si pensava fosse costruito, cioè io mi ero fatto un'idea, penso completamente sbagliata, e pensavo che certe sue cose, cioè, a parte la professionalità che ti fa tecnicamente costruire un personaggio, proprio su essere personaggio fosse più pensato che istintivo. Invece recentemente... Con Fiorello forse l'hai visto più... Ecco, da quello che è stato il suo comportamento con Fiorello, eccetera, eccetera, l'ho rivalutato moltissimo e anzi, se devo essere onesto, un pochino mi pento anche di aver pensato questa cosa, che peraltro non era una cosa negativa, capisci? No, era semplicemente vederlo sotto un'altra luce e poi può succedere con le persone. Sono stato piacevolmente colpito, la mia ammirazione per lui è cresciuta, perché credo che anche in questo rispondo alla persona che ha chiamato prima. Nel momento in cui ti dicono che Mai Buongiorno è morto ed è un pezzo della tua vita che se ne va, poco importa che sia morto nella sua casa, in albergo, la cosa più importante è che Mai Buongiorno è morto. Ed è una di quelle persone, almeno a mio avviso, nel mio specifico, che io mi ero abituato a considerare eterno, tipo Gianni, sì, Agnelli, capito? Quelle persone che fanno parte della vita e che sempre lo faranno. E rieccoci, Roberta Giordano sempre con voi, abbiamo ancora mezz'ora insieme per sbizzarrirci nella scelta delle notizie della settimana e anche per esprimere liberamente le nostre, le vostre opinioni sui tanti fatti. Ne sono venute a galla diverse, è sempre molto interessante sentire il vostro parere al di là, insomma, che qualcosa sia più rilevante o qualcosa meno. 800 24 00 24, in mia compagnia, in vostra compagnia c'è sempre Giorgio Faletti, scrittore di grande successo di Gialli, l'ultimo è Io sono Dio, e che tra l'altro fa anche un po', come possiamo dire, da inviato sulla poltrona per quanto riguarda le prove del Gran Premio di Monza. Come sta andando? Allora, sono nella Q2, cioè, scelgono 10 piloti. In questo momento il miglior tempo è di Barrichello, sì. Secondo Hamilton e terzo Button. Fisichella, quindi... Fisichella purtroppo in questo momento è escluso dalla fase successiva, che è quella per stabilire la position della gara di domani. Tra l'altro, Giorgio, insomma, è un po' multitasking, perché io gli ho detto: senti Giorgio, oggi sei con me dalle 14 alle 15 con gli ascoltatori, fai il mio opinionista estemporaneo. Dice: però per me è una tragedia, perché devo guardare anche il Gran Premio, sono appassionato, c'è Fisichella, un italiano alla Ferrari, quindi è un po' multitasking, si sta tenendo più su più piani, mi sembra che sia molto lucido poi nelle risposte, quindi in realtà se la cava molto bene, anche se è su più piani. Tra l'altro multitasking. Poi ci sarà Valeria Della Valle, che torna sempre accanto a me, anche se in collegamento, linguista della Sapienza di Roma, alla quale potrei chiedere, fra le altre cose, anche questa cosa di multitasking, come si potrebbe dire in Italia, cioè il lavorare contemporaneamente su più cose, come in genere sono capaci di fare soprattutto le donne, ma anche qualche uomo. E allora ritorniamo con le ascoltatrici e gli ascoltatori, al numero verde 800 24 0024 c'è Lorenzo da Ancona. Pronto? Lorenzo, siamo qua. Sono qui anch'io, ciao, è un piacere parlare con voi e soprattutto con sentire dopo tanto tempo Giorgio, che io me lo ricordo, poi dico quando, è una cosa bellissima. Te lo ricordi da bambino? No, me lo ricordo e lui si ricorda benissimo, sicuramente da quando veniva in Ancona con quella famiglia di cui lui è amico, che avevano questo locale e poi cenevamo nello stesso locale, che era una cosa bellissima. È vero Giorgio? Chiedo solo conferma. Che mangiavi di buono? Sì, mi ricordo no, si cucinava bene ed era pesce sempre, che c'era pesce. Questo ragazzo che cucinava da Dio. Caspita, ma non mi fai venire fame. Allora Lorenzo, quindi solo che mi è successa una cosa, sì. Che praticamente io avevo chiamato per il discorso Fini Berlusconi, sì. E Giorgio ha detto quello che volevo dire io. Sarà che mangiavate nello stesso ristorante allora, forse, cioè, questa cosa ha influito nel creare un'assonanza. La stessa cosa, ci ha lasciato secondo me solo una cosa, che a Fini la vecchia struttura di Alleanza Nazionale gli dovrebbe reggere. Uno, perché a me però già Gasparri oggi almeno sul giornale si è proprio dissociato e pare anche la Russia sempre dal giornale. Ma apposta, no? Ma è evidente. E poi deve tener conto della realtà, che è la Lega, alla quale Lega hanno votato nelle ultime anche gente che veniva, anche operai che venivano dalla parte di Rifondazione, sì, per sì. Cui uno bisogna che un attimo il cervello lo collega prima. Vabbè, però Lorenzo, secondo te uno deve cercare il consenso a tutti i costi o dire esattamente quello che pensa? No, allora se uno dice quello che pensa, in questo caso si fa solo un attimino di affari suoi, perché se no, si dice io il mio programma politico, le mie idee, la mia visione dell'Italia e di quello che bisogna fare è questo, credo che sia, sperando che sia sincero, è quello che pensa, che vuol fare, come intende agire anche, no? Eventuale congresso, e poi devi anche darti una regolata, cioè a me che vengo dalla Democrazia Cristiana, che ho sempre votato sul centrodestra, socialisti, in quella zona lì, e che non voterò mai a sinistra, no? A me mi sta bene, pure che ci metta buon tempo, dico un qualcosa così, no? Però soprannominato il pecora lui, sì. Sì. No, scherzavo. Però non mi sta bene che uno diventi un elemento di rottura, cioè per raggiungere un equilibrio abbiamo dovuto correre tanto, siamo arrivati a un'elezione e grazie a Dio, dal punto di vista mio, le abbiamo vinte, anche se sono stati mandati a casa, continuano con un'arroganza unica, va bene anche chi, la questo. Sinistra? Voglio dire, a Zapatero gli poteva interessare se Berlusconi aveva passato una notte bene o no, cioè voglio dire, tanto le abbiamo passate tutte, no? Sul Presidente del Consiglio è una cosa un po' diversa, avere un ruolo piuttosto che un altro. Lorenzo, è chiarissimo, hai espresso fino in fondo quello che volevi dire? Sì, perfettamente. Saluto Giorgio e credo, poi stasera glielo dico, che l'amico suo, il vecchio amico suo, glielo saluto io. Benissimo. Grazie infinite, trasmettigli i miei saluti e un abbraccio a tutti. Grazie Lorenzo. Adesso io, visto che stavamo parlando appunto sempre dello scontro Berlusconi-Fini, allora è arrivata poco fa un'agenzia dell'ANSA dove Fini dichiara, e oggi è all'assemblea centrista, cioè è ospite dell'assemblea dell'UDC, dice: auspico il superamento di quella che è la più becera, grossolana e antistorica storica delle contrapposizioni in Italia, cioè quella fra laici e cattolici. Lui dice che bisogna superare, sapete che ha mostrato, diciamo, una particolare attenzione su temi etici e laici, per esempio il testamento biologico, al quale sarebbe favorevole, l'immigrazione, il dare voto agli immigrati, la laicità dello Stato, anche parlava anche dei diritti dei gay, che anni fa era piuttosto chiuso su questa cosa, invece sembrerebbe che abbia cambiato idea. Francesca da Milano, sempre al numero verde 800 24 00 24, per i vostri commenti sulle notizie di questa settimana. Francesca. La ringrazio molto per il grande spazio che dà agli ascoltatori. Grazie, faccio quello che mi piace, ascoltarmi. È un'ottima radio e le trasmissioni sono validissime, anche se ci sono suoi colleghi, tipo quello della Zanzara, che pur non essendo berlusconiano è sicuramente anti-berlusconiano, per cui non lascia spazio alla gente come fa lei. Ma insomma, ognuno ha il suo stile. Prego, Francesca, quindi qual era la notizia? Sì. Allora, è chiaro che la settimana è stata ricchissima di eventi. Certo. E quest'ultimanza che lei ha letto, che io non avevo sentito, mi fa capire molte cose. Comunque, Fini, purtroppo proprio per le sue posizioni laiche, non avrà molto spazio. E sarà condannato al silenzio, oppure ad uscirne in solitudine. È coraggioso, il fatto quindi. Che i suoi certo, lui è uno che afferma i suoi principi, però purtroppo l'alleanza malefica tra Vaticano e Berlusconi è saldissima. Basterà che rimetteranno in agenda la RU486, il testamento biologico e altre cose di questo tipo, dove il governo è inamovibile, quindi l'alleanza con il Vaticano va benissimo, va più che bene. È solo fumo negli occhi, secondo me, quello che è successo riguardo al caso Boffo. Comunque, quello che volevo dire io riguardo alla Lega, è veramente inammissibile, a parte i teatrini, l'acqua, il Po, il Pian del Re, quei quattro avvinazzati che seguono sempre il ministro pagato coi soldi dei contribuenti, il cui figlio per 3 anni, incapace di prendere uno straccio di maturità, ha un posto retribuitissimo, si parla di 12.000 euro al mese cose di questo tipo, ecco. E questo ministro che noi dobbiamo vedere, cioè io se fossi la moglie del ministro Bossi avrei un po' di carità cristiana nel mostrare una persona così, con tutto rispetto per la malattia, per carità di Dio, perché non è colpa sua, certo, se gli è venuto l'ictus, però adesso veramente non se ne può più. Sentirlo poi esternare sui mandanti che sarebbero la mafia riguardo alle escort, quando il suo giornale, La Padania, e negli anni scorsi, andatevelo a cercare in rete, su Wikipedia trovate tutto quello che volete, articoli e articoli accusando di provenienza mafiosa i capitali di Berlusconi. Quindi voglio dire, decidetevi. È chiaro che la Lega, fuori da questo governo, con il suo 10% a livello nazionale, anche se poi a livello di giunte amministrative è chiaro che in molti paesi purtroppo è ovunque, no? Con quel che ne consegue, vietare qualsiasi cosa, no? Io sono in un paese in cui è sabato pomeriggio, c'è un bar qua vicino, una maleducazione incredibile, bestemmie, e qui comandano, cioè hanno voglia a dire che devono chiudere i posti dei kebab perché sono dei sembramenti di gente rumorosa. Nei paesi dove comandano loro succedono cose ben peggiori. Francesca, dimmi solo una cosa, posso chiederti di cosa ti occupi nella vita? Se non vuoi, uguale. Mi occupo, lavoro in un'azienda e il cielo sono una delle persone che leggono molto l'informazione della carta stampata, più giornali, più quotidiani, e purtroppo invece, diciamo, fortunato rispetto a chi invece si abbevera solo alle reti televisive, che ad eccezione di 3 e qualcosina della 7 sono, diciamo, abbastanza, Rai 3 è chiaro che è marcatamente di sinistra, però certamente non c'è paragone rispetto alle altre reti. Francesca, chiarissimo il tuo, è anche appassionato la tua argomentazione, ti ringrazio, poi si cominciava a sentire anche un po' disturbata la linea, ma volevo chiedere a Giorgio Faletti se volesse intervenire su qualcosa che è stato detto, ma anche su questa faccenda, visto che Francesca parlava della Lega, che è successa a Ponteranica in questi giorni, un piccolo comune vicino Bergamo. Il sindaco leghista, che c'è da poco, ha tolto la targa della biblioteca che era intestata a Peppino Impastato, questo giovane siciliano che per le sue denunce contro la mafia è stato assassinato nel 78, perché dice non è un locale, non è un cittadino locale, metteremo un'altra targa. C'è stata ovviamente una grossa polemica. Tu cosa ne pensi, Giorgio? Ma guarda, io credo che questo sia uno dei lati in ombra della Lega. E leggevo un reportage recentemente, mi pare sul Corriere della Sera, dove analizzava il comportamento della Lega e quello che ne veniva fuori è che in questo momento è il partito che più interpreta la concezione di partito di Gramsci, e che questo farebbe della Lega praticamente un partito di sinistra. E questa è una cosa bizzarra, perché in effetti, avendo recuperato voti dal bacino che era una volta di competenza di Rifondazione Comunista, significa che gli esponenti della Lega hanno fatto come politica quello che avrebbe dovuto fare a Rifondazione, cioè sono stati a contatto con la gente, hanno sentito le loro necessità, le loro proteste, le loro pulsioni. Solo che in queste cose piccole, e se devo essere onesto, non dico meschine, ma l'unica parola che mi viene in mente è piccola, perché meschino è sovradimensionato. Io trovo che una persona che ha fatto qualcosa, ha dato la vita per il suo paese, vada considerato in quanto tale, in quanto autore di un gesto importante, a prescindere da quella che è la sua collocazione geografica. Vorrei dire che per quello che riguarda la faccenda, la cosa dell'immigrazione, e secondo il mio punto di vista, onestamente, un giro di vite va dato, ma non in quanto sbarrare completamente l'immigrazione, ma vedere di trovare una soluzione per evitare che l'Italia sia il bacino d'utenza di tutta la criminalità che da quei paesi arriva verso di noi. Cioè, teniamo presente una cosa, che gli stranieri, gli immigrati in Italia sono, mi pare, 5-6% della popolazione, e della popolazione carceraria sono il 40%. Allora, questo significa che se c'è gente che viene qua per delinquere, ecco, questa gente va trattata per quello che è. Io sono fermamente convinto che tutti gli uomini sono fratelli, ma se uno parte dal suo paese, venire qua a spacciare la droga, a mandare a prostituirsi delle ragazzine di 12 anni, quello non è mio fratello, ma non è. No, hai ragione, anche quelli che ci vanno, che in genere sono italiani. Roberta Giordano sempre con voi, e ricordatevi ogni sabato dalle 14 alle 15 qui per fare un po' un punto su tutti i fatti della settimana, ritornarci sopra, esprimere liberamente le vostre opinioni. Con me c'è oggi eccezionalmente Giorgio Faletti, scrittore di grande successo, oltre che con tutta la sua carriera artistica, dicevo, di Gialli. Io sono Dio è l'ultimo, e prima sentirei Patrizia da Roma, il numero verde 800240024, che so che è un po' che aspettate. Patrizia? Buongiorno. Buongiorno Patrizia. Ti chiedo subito di abbassare la radio in macchina, perché c'è tutto il riverbero. La spegni. Senta, costa anche la macchina, perché sono in macchina. Sì. Io forse potrò rischio di andare fuori tema, però spero che lei me lo permetta. Io credo che ci siano tre elementi che caratterizzano il quadro generale, sicuramente del nostro paese, non so se del resto del mondo, ma in alcune cose penso che sia abbastanza allargato al mondo occidentale. Da una parte del nostro paese lo scarsissimo spessore di tutto il ceto politico. Lo scarsissimo? Di tutto il ceto politico. Arco costituzionale a tutto tondo. Devo dire che dopo il 92, io ho 60 e passa anni, io vedo gente che francamente erano quadrini, non so, che sono arrivati a livelli in cui non sanno cosa dicono e cosa fanno. E questa è una cosa, e la quale ci si diverte, tra l'altro, a non essere mai orgogliosi di tutte le cose, non sono poche buone, che l'Italia nel suo complesso ha. E va bene, questa è una. Le altre due cose che mi sembrano veramente, e quelli non so se sono un frutto della mia età, queste due riflessioni. Uno è che c'è una mancanza di gusto che fa venire veramente, mi perdona il termine, in volta stona, no? No, perché è un termine. Insomma, italiano. Io quando compro il quotidiano, non compro chi, odio chi e quei giornali, e io me li dovrei sorbettare nei quotidiani che sono diventati più o meno tutti dello stesso livello di chi o quella roba che si vede dal parrucchiere. È evidente che un Berlusconi, che ha una storia ben precisa, ma cosa pensavamo, che fosse un santarello? Adesso, va. Premesso. Dopodiché, per piacere, io vorrei anche sapere tutto quello che succede nella sinistra, perché non ci dimentichiamo che il vice di Prodi faceva il guardone nelle strade di Roma dove ci sono i transessuali. Ma quindi, sì, aveva un altro ruolo e non so poi se era stato colto in flagrante. Vabbè, era una questione un po' diversa comunque. Ho parlato per circa mezza giornata. Mm. Ecco. La terza cosa, che è estremamente pesante secondo me in un paese, per la tenuta di un paese, è che non c'è più limite a nulla. Non abbiamo più nessun limite inderogabile al di qua dei quali esiste il, mi permette la parola, male. Cioè, una cosa che non va fatta perché non va fatta. Questo infatti è piuttosto condivisibile, ma anche solo la questione di decoro e anche di consapevolezza del ruolo e dei doveri che si hanno rispetto appunto a una carica che si ricopre. Patrizia, ti devo salutare e ti ringrazio, perché mi diceva Filippo Oreggi, che saluto, alla parte tecnica, che era un po' disturbato effettivamente. Poi ringrazio anche ai telefoni la Dea Calì, Valeria Coffaro e Giorgio. Ci sono ancora molti ascoltatori, adesso cerchiamo di dare velocemente spazio. Se vuoi commentare, oppure per esempio mi viene in mente di questa storia dell'ennesimo ragazzo omosessuale massacrato di botte a Firenze. Insomma, è possibile? Si dice che la mamma dei cretini è sempre incinta, ma il padre degli imbecilli vili è sempre molto prolifico, però. Eh beh, sì, messi insieme. Vero, una bella coppiata. Hanno la prolificità dei conigli. No, volevo dire semplicemente una cosa. È velocissima, sì. Una replica alla telefonata che ho appena sentito. E quello che si sta sbagliando in Italia, a mio avviso, è quando viene scoperta una magagna di uno schieramento politico, subito si va a cercare il corrispondente in quell'altro. Praticamente il risultato è che si avvallano tutte e due. Se l'hanno fatto loro, lo posso fare anch'io. Il problema è che nessuno dovrebbe farlo. E quelli che si macchiano di certe cose, che teniamo presente che nella sua camera da letto ognuno è libero di fare quello che vuole, e questo è un dato di fatto. Però nel momento in cui tu rappresenti un popolo, ci sono delle cose che non sono sbagliate, ma penso che un briciolo di buon gusto non faccia male a nessuno. Ecco, io voglio dire semplicemente questo. Chiarissimo, Giorgio. C'è a questo punto, attenzione, un ospite che devo riprendere dalla vecchia stagione e con grande successo rilanciare. Valeria Della Valle, eccomi qua. Linguista della Sapienza di Roma, con la sua vivacità, diciamo così, comunicativa e intellettuale, ovviamente. Valeria, ritorniamo allora a interrogarci sulle espressioni o le parole che hanno caratterizzato in parte la settimana. Non è sempre facile trovare quella parola, però per esempio mi viene in mente inchiesta, con tutte le inchieste di Bari, sì. Poi il ritorno a Palermo, Firenze, certo. E poi l'inchiesta giornalistica, che insomma si dice che è morta. Siamo circondati da inchieste, ecco, la nostra vita è messa nelle inchieste, e a questo punto cerchiamo di fare una riflessione velocissima sulla parola, sì. Per dire che sia che parliamo di inchiesta giornalistica, scientifica, sociologica, statistica, ma soprattutto la commissione d'inchiesta, l'inchiesta parlamentare, l'inchiesta giudiziaria, ovunque, come eccetera, eccetera. Ecco, comunque la mettiamo, il significato oggi prevalente è soprattutto quella di un certo tipo di indagine, che poi è l'indagine disposta, fatta dagli organi competenti, eccetera, eccetera. Ecco, voglio dire che questo significato è un significato abbastanza recente, e cioè è arrivato dalla lingua francese, nella quale la parola enquête è stata già usata nell'Ottocento, e tra l'altro nella lingua italiana, ora molti rabbrividiranno, per un certo periodo si è usato anche il verbo inchiestare, sono sicura che non piacerà a nessuno, come spesso succede, le cose orecchio. Brutte poi decadono, no? Anche se non sempre. E allora volevo dire questo, e questo è un significato, dicevo, recente, ma la parola inchiesta nella lingua italiana esiste da secoli e secoli, e il significato originario in realtà era un po' diverso, non era quello legato agli ambiti giudiziari, ma era semplicemente il significato di domanda. E andando a spulciare, mi sono preparata per oggi, ho trovato che addirittura ancora nel Settecento Pietro Verri, nelle sue lettere, diceva inchiesta di nozze, per dire domanda di nozze, e che Alessandro Manzoni ha smesso permesso nel corso del tempo di usare la parola inchiesta con questo significato e l'ha sostituita con domanda. Ecco, se vogliamo trarre una, come sempre, una velocissima morale sorridente per chiudere in bellezza, beh, visto che siamo a volte oppressi, no, dalle inchieste e dalle controinchieste, beh, forse certe volte una inchiesta di nozze alla maniera settecentesca non ci dispiacerebbe tanto. Oh, come sei romantica. Grazie Valeria Della Valle. A voi. E al prossimo sabato. Ora, io chiedo scusa davvero alle ascoltatrici e ascoltatori che non farò tempo a sentire, come Tatiana da Pescara, come Enzo da Civitanova Marche e altri. Ci risentiamo però il prossimo sabato, ve lo ricordo, dalle 14 alle 15. Con questi 30 secondi che mancano, chiedo a Giorgio Faletti come sta andando la Formula 1 o se vuoi fare un commento finale. Scegli tu. Ma guarda, il commento finale è che, a parte la Formula 1 che ha visto escluso Fisichella dalla fase finale delle qualifiche, e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dall'acutezza prima di tutto delle osservazioni degli ascoltatori, delle persone che hanno telefonato, anche se chiaramente qualcuno dimostrava, com'è giusto, una parzialità. Ecco, una cosa. Vorrei dire un'ultima cosa, sì, che sul fatto che l'Italia sia uno Stato non laico c'è poco da obiettare, è un dato di fatto, esiste un terzo polo che è rappresentato dalla Chiesa. Però ricordo anche che quando si è trattato di votare il divorzio, capito? Il divorzio, che era la scelta quanto più laica possibile, è passato. Di conseguenza siamo un popolo tutto sommato che non si fa irretire da questo tipo di considerazione. Bene, Giorgio Faletti, io ti abbraccio, ti ringrazio, ricordo il suo ultimo romanzo Io sono Dio, ti lascio godere le prove, ma poi domani ci sarà la gara, il Gran Premio. Grazie Giorgio. Ciao, buona giornata a tutti e ai tuoi teleradio spettatori che aspettano spesso. Effettivamente Roberta Giordano vi saluta, e per salutare un po' alla Mike, che l'allegria insomma sia con voi.